I'm sorry, but never. A spezzare un albero. Avessi finto sarebbe stato meglio di averti visto piangere in uno specchio. E mi manca la tua voce ormai. Ora che sei qui, io sono qui. Ci vestiremo di vertigini mentre un grido esploderà.